si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10. Un'occhiata ai giornali di oggi, una rassegna stampa fino al giornale radio delle 8, poi dopo cominceremo con i nostri approfondimenti, le buone notizie, insomma andremo un po' in giro in qua e là per l'Italia a caccia di buone notizie. Oggi partiremo, ve lo dico subito, dalla lotta all'evasione fiscale, perché con il decreto mille proroghe recentemente approvato tornano i bonus per i comuni che collaborano nella lotta all'evasione fiscale. In quasi tutti i comuni si stanno aprendo nuclei anti-evasione all'interno della polizia municipale, controlli un po' da tutte le parti, perché la novità del decreto mille proroghe è proprio questa: i comuni si possono tenere il 100% di quello che riescono a raccogliere in termini di evasione fiscale. Ripeto, nuclei anti-evasione nella polizia municipale di diverse città. L'ultima in ordine di tempo a dotarsi di questo strumento è la città di Livorno. Cercheremo di capire che cosa faranno questi vigili anti-evasione e se è davvero così che si fa il controllo contro l'evasione e l'elusione fiscale. Questo dopo il giornale delle 8, adesso però cominciamo con i giornali di oggi. Vai! Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, dunque, che cosa c'è oggi sui giornali? Naturalmente echi di quello che ha detto il Papa ieri, c'è il doppio annuncio sul suo pontificato, ma anche sul giubileo straordinario, poi insomma la visita di Renzi ai cantieri dell'Expo, poi il viaggio in Egitto, quindi la questione ISIS, la questione diciamo degli esteri, ma anche notizie di economia sulla Grecia. Ieri c'era Varoufakis a Cernobbio, però ha un po' gelato le aspettative dei greci, perché non sono buone notizie per loro. Partiamo di qua, foto notizia del Corriere, il caso Grecia, il ministro Varoufakis a Cernobbio con la moglie in giro, fotografato, paparazzato qua e là, dice che però la Grecia è pronta a rinviare le promesse elettorali, cioè rimandare alcune delle costose promesse elettorali sul welfare, sulle nuove assunzioni, insomma sulla fine dell'austerity in Grecia, per trovare prima una soluzione con le autorità competenti, con la Banca Centrale, col Fondo Monetario e con la Commissione Europea. Il titolo principale però è dedicato al Papa, come dicevamo, il giubileo di Papa Francesco. Ho la sensazione che il mio pontificato sarà breve, 4-5 anni, non lo so, forse 2 o 3. Leggiamo all'interno, intanto, perché queste frasi del Papa, come prenderle, come interpretarle, queste cose sulla durata del suo pontificato, un limite anche come fu per Ratzinger, o una questione insomma di età, di salute, vediamo. Scrive Gian Guido Vecchi: in quella frase sul suo tempo non c'è la rinuncia né il limite dell'età. Il 18 agosto dell'anno scorso, di ritorno a Seul, aveva scherzato sulla propria morte facendo il gesto di chi se ne va. Io so che questo durerà poco tempo, 2 o 3 anni, poi via alla casa del padre, aveva detto Papa Francesco. Nell'intervista di ieri la TV messicana ha confermato la sensazione un po' vaga che il pontificato sarà breve, salvo aggiungere: è come la psicologia di chi gioca e allora crede che perderà per non restare poi deluso, e se vince invece è contento. Non so cos'è, ma ho la sensazione che Dio mi abbia messo qui per una cosa breve, niente di più, ma è una sensazione. Per questo lascio sempre la porta aperta alla possibilità. Insomma, quindi una, diciamo, un'interpretazione diretta del Papa su queste frasi, di tipo psicologico, insomma, così, per un po' per rassicurarsi, una cosa anche molto umana. Continua Gian Guido Vecchi, dice: eppure di là da questa sensazione, la cosa notevole è che Francesco respinga sia la possibilità di un limite di età fissato, magari a 80 anni, sia l'idea di, in generale, di un papato a termine, come se la rinuncia fosse ormai un esito inevitabile. Aveva già detto: a me non piace fissare un'età, parlare di 80 anni crea una sensazione di fine pontificato che non farebbe bene, qualcosa di prevedibile. Questo per quanto riguarda, diciamo, cercare di entrare un po' all'interno di queste frasi, di queste parole di Papa Francesco. Più avanti vedremo qualcosa invece su cosa si annuncia per questo giubileo straordinario a fine 2015. Però gli altri titoli sono questi, sempre sul Corriere: vertice in Egitto, Renzi lancia l'allarme, intervenire in Libia prima che l'ISIS vinca. Anche qui vedremo tra poco, da qualche parte, qualche approfondimento su questo. Vediamolo subito, sulla Stampa. C'è una bella pagina con il titolo: Renzi rilancia la sfida in Libia, fermiamo l'avanzata dell'ISIS. La soluzione della crisi deve partire dagli sforzi delle Nazioni Unite, ha detto ieri parlando con il presidente egiziano Al-Sisi, il quale da parte sua ha detto: l'Egitto è la colonna portante della stabilità della regione. Vabbè, insomma, parole di circostanza, ma insomma l'Egitto sembra essere un po' la potenza, il paese, la nazione su cui puntare per stabilizzare la situazione in Libia. L'Egitto che, insomma, una volta tanto sì, ha problemi interni, però non è un paese sicuramente diciamo destabilizzato più di tanto in questa fase, quindi potrebbe essere anche una scelta giusta per una volta questa. Il retroscena spiegato dalla Stampa è anche questo, legato alle scelte economiche dell'Italia che è molto presente in Egitto: energia, alta velocità e turismo, è Made in Italy il nuovo Egitto, in ballo accordi milionari per rilanciare l'economia e combattere il terrorismo. Si va da iniziative che riguardano il turismo sia sulla costa del nord, vicino ad Alessandria, sia nella zona classica di Sharm el Sheikh, il triangolo minerario per l'estrazione, insomma, di vari minerali, poi l'alta velocità, il raddoppio del canale di Suez, anche qui mega progetti per hub logistici e portuali, con tante, tutte forse, imprese italiane impegnate in questa fase dello sviluppo dell'Egitto. Italia e Egitto dunque che stringono un po' le fila di questa amicizia politica ed economica. Torniamo per un'ultima notizia sul Corriere. Berlusconi e l'insofferenza per Salvini, il populista. Ci sarebbe stato ieri un vertice ad Arcore a proposito delle elezioni regionali, nelle quali Berlusconi, insomma, abbastanza infastidito dall'atteggiamento di Salvini, che prima aveva definito il goleador migliore del centrodestra e lui avrebbe fatto il regista, ma da quando Salvini sembra, mostra di voler andare per la sua strada per conto suo come leader unico del centrodestra, sfidando anche se possibile Forza Italia e Berlusconi, Berlusconi non ne vuol sentire, insomma, di questo atteggiamento. E allora ieri, a proposito delle elezioni regionali in Veneto e a proposito della candidatura ormai sicura di Tosi contro Zaia, Tosi a cui appunto Salvini ha sbattuto la porta in faccia alla Lega, Berlusconi avrebbe detto: no, non è detto che non possiamo appoggiare Tosi. E questa sarebbe una notizia, che sia melina o che sia verità, insomma, questo al momento è, diciamo, il posizionamento di Forza Italia tra la Lega e anche spinte più centriste, che potrebbero anche riavvicinare Forza Italia al nuovo centrodestra, cosa su cui si lavora anche su questo versante, insomma. Torniamo, andiamo invece su un altro giornale, andiamo sul Sole 24 Ore, per esempio, perché si occupa di questa notizia: rientro dei capitali, ecco le regole del fisco, più semplice sanare i vecchi patrimoni. Che succede? Che ci sono stati chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ed è partita la corsa all'emersione dei capitali fiscalmente occulti. Più semplice sanare i vecchi patrimoni. Tra i contribuenti che potranno avvalersi della voluntary disclosure entro il 30 settembre anche del 2015, anche i residenti in paesi blacklist. E poi c'è sono le frasi di Squinzi, presidente di Confindustria, ieri a Expo: sarà uno shock positivo per tutta l'economia, ha detto il presidente appunto di Confindustria, che ieri era la presentazione di Fab Food, una mostra promossa da Confindustria nel settore dell'alimentazione, insomma, industria alimentare sostenibile italiana. Quindi questi, diciamo, i giudizi positivi. Squinzi tra l'altro ha fatto anche un endorsement positivo nei confronti del governo Renzi, non era immaginabile che si potessero fare così tante riforme come si stanno facendo fino a questo punto. Su questi argomenti titola anche Repubblica: un'impresa su due assumerà, gli industriali prevedono più affari nel 2015, poi sempre Renzi dall'Expo, ce la faremo. In questo caso la notizia invece viene da Cernobbio, perché insomma gli imprenditori presenti, più della metà, in uno dei consueti sondaggi che vengono fatti insomma ciclicamente, dicono il 51% di loro intende assumere nel 2015, e questa è sicuramente una buona notizia. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, dando un'occhiata ai giornali di oggi sugli argomenti economici, eravamo sugli argomenti economici con il titolo in questo caso prima del Sole 24 Ore, adesso di Repubblica: un'impresa su due assumerà, notizie che vengono da Cernobbio. C'è anche il titolo principale, l'anno santo di Francesco, il mio pontificato sarà breve. C'è anche però questa notizia, diciamo, di spalla che ha colpito un po' ieri l'immaginario. Madonna shock in un'intervista alla radio americana sul suo stupro avvenuto quando aveva 19 anni, troppo umiliante denunciarlo. Insomma, come mai la rockstar americana, che aveva già detto di essere stata violentata a 19 anni, lo aveva detto due anni fa in un'intervista a un magazine femminile, ieri però ha aggiunto questo particolare: non denunciare la mia violenza sarebbe stato inutile. Insomma, un messaggio arrendevole che non è piaciuto a molti da parte della pop star americana, che però insomma motiva questa cosa dicendo che, ricordando i dati, che nel 98% dei casi gli stupratori non fanno un giorno di carcere, nel 68% dei casi chi è vittima di violenza sessuale per questo motivo non denuncia. È un po' un gatto che si morde la coda, perché naturalmente se nessuno denuncia nessuno stupratore sarà mai in carcere. Però insomma, Madonna è stata di recente in Italia, grande successo per lei di fan. Adesso questa frase che lascia un po' l'amaro in bocca. Sempre da Repubblica, però, tornando al dibattito interno alla Lega, abbiamo letto prima insomma di retroscena sul fatto che Berlusconi sarebbe tentato quasi di sostenere Tosi in Veneto per stoppare un po' l'ascesa di Salvini. Invece Repubblica intervista una delle tre parlamentari che hanno annunciato di seguire Tosi, di abbandonare quindi la Lega. Lei è Emanuela Munerato, ex operaia di tessile di della provincia di Rovigo. Dice: forse quello di Flavio non è un carro del vincitore, di sicuro è quello del migliore. Io non abbandonerò Tosi, hanno colpito non solo lui ma tutti i veneti, ce l'ho con Salvini, un buon segretario federale deve puntare al dialogo. Invece lui non ha fatto nulla per mettere d'accordo Tosi e Zaia. La domanda poi, insomma, andrà via dal gruppo della Lega, così come lei lo faranno Patrizia Bisinella, fidanzata di Tosi, e Raffaella Bellot? Siamo tutte e tre venete, molto amiche, in sintonia su tutto. Perderete però alle prossime elezioni, cadreghe schei? La domanda del giornalista di Repubblica. La poltrona è l'ultimo dei miei pensieri, ho sempre lavorato, tornerò a farlo, forse riuscirò a vivere una vita più normale, i soldi come le poltrone non sono tutto. Ma la frase più importante dal punto di vista politico è questa: la Lega si è snaturata, io non mi ritrovo più nella Lega di Salvini, dice questa parlamentare ex a questo punto del carroccio, la Munerato, che poi dice: ma perché si è snaturata? Troppo schiacciata a destra, sono andata alla manifestazione di Roma, tutti quei fascisti in piazza mi hanno fatto impressione. Altri giornali su altre notizie, per esempio Il Giorno, il quotidiano nazionale Il Giorno, punta su questo, sul fatto di cronaca avvenuto ieri a Terni: espulso, libero di uccidere. Marocchino respinto, chiede asilo, glielo negano, fa ricorso e nell'attesa taglia la gola senza motivo ad un giovane di Terni. È la stessa scelta che fa anche Libero, il quotidiano Libero, che scrive: adesso i clandestini ci sgozzano per strada, espulsi ma tornano coi barconi. marocchino chiede asilo e mentre i giudici riflettono va in giro, si ubriaca, ammazza un giovane di Terni mai visto prima. Un altro caso Cabobo, ma non ci avevano giurato che non sarebbe più successo? Questo invece per quanto riguarda, ancora torniamo per un attimo sul Papa a proposito del del giubileo, se lo trovo da qualche parte. Eccolo qua, c'è l'intervista al cardinale Casper, che è di solito vicino alle posizioni di Papa Francesco, che dice: né mega raduni né spettacoli, questo giubileo sarà molto diverso da quello che avete visto nel 2000 quando c'era Wojtyla. Allora ci furono raduni, appuntamenti, meeting, milioni di pellegrini insomma accorsero all'appuntamento col quale Wojtyla decise di traghettare la Chiesa nel terzo millennio. Questo giubileo della misericordia sarà diverso, immagino un anno di meditazione, di riflessione sul senso del peccato e del perdono alla luce della misericordia ricorda di Dio. Forse non ci saranno grandi raduni nemmeno, dice Casper, intervistato da Repubblica. Però è ancora presto per fare previsioni, perché si sa che Papa Francesco sorprende sempre e su questo non ci piove. Il Messaggero invece, vogliamo ancora su un'altra notizia, intervista al ministro dell'istruzione Giannini, che dice: dopo la scuola tocca alle università, autonomia anche qui e meno burocrati. Leggiamo brevemente tutto il commento sulla riforma della scuola. Dice: dal prossimo anno la scuola italiana avrà il 10% di insegnanti in più. Per la prima volta si trovano risorse aggiuntive da destinare esclusivamente ai premi per il merito. Già, ma si tratta solo di 200 milioni di euro, perché questa è stata la decisione del governo. Inizialmente si parlava di scatti di stipendio in base al merito e non solo all'anzianità. Siamo tornati agli scatti sulla base dell'anzianità, cioè dell'età che avanza. Per il merito sono stati trovati solo 200 milioni, cioè per gli insegnanti più bravi non sono molti, dice però il ministro Giannini, è già qualcosa, è una cifra strutturale, è un punto di partenza. E poi annuncia che il prossimo step sarà occuparsi dell'università, e anche in questo caso non va molto oltre questa anticipazione, dice che la parola magica è autonomia. Vedremo di che cosa si tratta. Siamo quasi in chiusura, prima di lasciarci però lasciamoci con una buona notizia, vai! Andiamo sul tema del taglio ai costi della politica, perché insomma qualche cosa si continua a fare in Emilia Romagna sull'onda probabilmente anche delle recenti elezioni alle quali insomma ha partecipato quasi poco meno della metà degli elettori, insomma un grande disaffezione. Allora il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna è corso ai ripari e ha approvato una legge all'unanimità, maggioranza e opposizione, ha votato anche il Movimento 5 Stelle, una legge abbastanza grillina che taglia intanto le indennità dei consiglieri, circa 1.100 euro al mese in meno, abolisce il trattamento di fine rapporto, e vai, anche queste sono cose che fanno godere, insomma, un risparmio di 7 milioni per tutta la legislatura, ha tolto anche i fondi a disposizione dei gruppi consigliari, cioè quei fondi che sono spesso fonte poi di spese folli, di spese pazze. Ripeto, una legge votata da tutti i partiti, qualcosa di buono ci dovrà pure essere ogni tanto a cui aggrapparsi. Ci fermiamo per il giornale radio, torniamo subito dopo con Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Cari ascoltatori, vi aspettiamo 800 24 0024. Vi aspettiamo numerosi. Molto per numerosi. Giocare, molto numerosi. Per commentare, ma anche però a questo punto diciamolo subito, per così apriamo i microfoni agli ascoltatori credenti, ai fedeli, a quelli che frequentano le parrocchie. Ieri il Papa ne ha dette un paio grosse. Enormi, ma soprattutto la questione di sarà un pontificato breve. Io voglio capirla questa. Che vuol dire? Esatto, che chiediamo a tutti gli ascoltatori. Come l'avete vissuta? Qualcuno magari sa delle cose che noi non sappiamo. Oppure addirittura avremo un terzo Papa. Sta dicendo forse che lui fra 4-5 anni fa un passo indietro. Ed è bellissimo. Bergoglio e un altro ancora. Sarebbe stupendo, sarebbe una trinità, se si può dire. Bellissimo. Poi è troppo presto forse. Vi aspettiamo 800 24 00 24. Tra poco partiremo da uno dei nostri argomenti, diciamo, in cima alla classifica dei nostri interessi: la lotta all'evasione fiscale. Insomma, 150 miliardi di evasione stimati più o meno in Italia. Da tutte le parti si cerca il modo di arginare questo fiume in uscita di denaro, che invece potrebbe andare a rimpinguare, diciamo, le casse pubbliche, ma anche scuola, sanità, lo sappiamo benissimo. Anche perché forse è l'unico modo in cui si possono abbassare le tasse. Il solito discorso: se pagassero tutti e pagarle meno. L'ultimo comune in ordine di tempo a dotarsi di un nucleo anti-evasione della polizia municipale è la città di Livorno, perché nel recente passaggio del decreto mille proroghe è stato approvato questo: i comuni si possono tenere fino al 100% della raccolta della lotta all'evasione fiscale fatta sul territorio. Quindi capirai, i comuni hanno detto tac, facciamo subito. E da Pisano tu invece hai detto mica, non va mica bene, mi trasferisco. No. Come risponderà Pisa a questa cosa? Questa è una bella cosa da vedere, una diatriba da seguire. Insomma, partiremo da qui tra poco e quindi ci chiederemo anche se questo è un modo per contrastare veramente la lotta all'evasione fiscale. 800 24 00 24. Ieri invece io sono stato a Radio City Milano. Beato te, io non ci ho avuto tempo da lavorare. Ma diciamo, ero lì anche invece tua, credo. Sicuramente ero lì. Oggi grazie a te. Anch'io, sì. Ero lì grazie a te. Radio City è il festival delle radio che si svolge a Milano, alla Fabbrica del Vapore, da ieri a domani, domenica 15. E ero a Caterpillar, dei concorrenti, bisogna dire, a Caterpillar, sì, di Radio 2. Perché grandissimi concorrenti, ci inchiniamo, tra poco tra l'altro enormi. Lo avremo poi Cirri per le radio della salute e non vedo mentale, l'ora dopo, perché sì. Ieri lui scherzando mi diceva: ah, c'è qua anche Carlo Gabardini di una radio minore, giustamente, perché doveva fare questo, perché mi intervistavano sul fatto che io inizio a Macchia Radio, quindi con Gianluca Nera, Matteo Bordone, Simone Tolomelli, i quali, stufi di sgridarmi, mi regalano a te, Alessio Maurizio, a fare lo stage qui a Radio 24. Che io ti compro svincolato senza pagarti nulla, senza cartellino. Gratis. Senza cartellino. E quindi io ancora faccio qua lo stagista. Mi ha fatto molto piacere, è una manifestazione bellissima. Se avete occasione, passate dalla Fabbrica del Vapore a Milano, perché ci sono un po' tutte le radio, c'è anche Radio 24 in realtà, insomma, certo, sono tutte lì e fanno dei giochi belli, tipo si scambiano gli ascoltatori, cose è tutto basse, molto bello. Cose da radio. Diciamo anche qual è il gioco di oggi? Sì signori. Il gioco vero per cui si vince, intanto voglio dire il premio, ancora una volta voglio ringraziare l'Associazione dei Comuni Virtuosi che ci mette a disposizione, diciamo, questi premi in occasione del loro premio nazionale per i comuni virtuosi che si possono candidare andando sul sito dell'associazione. C'è un premio 4.000 euro per il comune più virtuoso in tema di rifiuti, mobilità sostenibile, nuovi stili di vita eccetera. Oggi il premio è una cassetta di prodotti biologici della cooperativa agricola Ca Magre, Isola della Scala, Povegliano Veronese, un comune virtuoso, l'abbiamo già parlato, 7.000 abitanti, pannelli fotovoltaici su tutte le scuole medie, risparmio nell'illuminazione con luci a LED, zone a 30 km e piste ciclabili, quindi si va tranquilli, calmi, meno incidenti, due nuovi parchi in pochi anni, tariffa sulla tassa dei rifiuti a consumo, cioè meno sprechi e meno consumi. Meno sprechi, cavagre, ma il cesto sarà ricchissimo, cesto speriamo, ricchissimo. Perché se no è... Chi se lo aggiudica? Se lo aggiudica, chi ci risponde a questo? Visto che nel fine settimana, oltre che a Radio City, c'è anche un altro appuntamento importante, la Fiera del Consumo Sostenibile, fa la cosa giusta, sempre a Milano, fino a domani. stili di vita e consumi sostenibili, insomma vi chiediamo i vostri stili di vita sostenibili, i vostri consumi, e anche soprattutto di denunciare il vicino di casa che lava la macchina con l'acqua potabile, che è una cosa che non si può vedere, no? Uno spreco, nel senso che ma con l'acqua frizzante dici, proprio quella delle bottiglie, esatto. Oppure non so, però l'acqua potabile nel senso che con che cosa si lava la macchina? Io nel mio condominio non è che ho dei rubinetti d'acqua non potabile, dice. Bella domanda. Ci sono delle fonti così, però non sono a portata di tutti, infatti, però è uno spreco. Io non ho la macchina, ho risolto il problema alla base. Bravo. Oppure quello che fa la doccia ci sta mezz'ora e l'acqua che scorre sempre, non so, la figlia, se avete una figlia o un figlio che si fa la doccia così e non ne potete più perché poi alla fine pagate pure la bolletta più salata, chiamateci e sfogate. Oppure quello che va a comprare il giornale con la macchina per fare 300 metri, queste cose qua, insomma, no? Giustissimo. 800240024, il racconto più bello, si porta a casa il cesto di prodotti biologici poco prima menzionato. Andiamo a cominciare? Andiamo a cominciare. Via! Questo 007, insomma, che tra l'altro è di attualità perché stanno girando a Roma in questi giorni. Nascono gli 007 della Polizia Municipale, hanno titolato così i giornali della cronaca locale a Livorno, guerra all'evasione fiscale. E noi abbiamo convocato il comandante della Polizia Municipale di Livorno, Riccardo Pucciarelli. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, insomma, l'ultima città in ordine di tempo, città grande e importante, a dotarsi di questo strumento che già altre città stanno sperimentando, perché insomma adesso il governo promette ai comuni che si possono ottenere, insomma, il 100% del bottino, del ricavato dell'evasione fiscale, quindi diventa un fatto interessante. Voi al momento state facendo corsi di formazione per questi nuovi 007, è così? Sì, ora a parte il titolo dei giornali 007, forse un po', comunque stiamo facendo dei corsi di professionalizzazione di un gruppo di agenti e di ispettori, grazie alla Regione Toscana, alla Scuola Interregionale di Polizia Municipale, che ci ha messo a disposizione appunto queste risorse per fare questi corsi. Noi abbiamo avviato una ventina di agenti e alcuni ispettori in modo da acquisire una solida preparazione ed essere pronti in un tempo ragionevole a mettere in campo anche questa risorsa per affrontare l'argomento. Cosa stanno imparando questa ventina di agenti, diciamo, speciali sul fisco, antievasione? Cosa faranno poi soprattutto? Innanzitutto una preparazione normativa, una preparazione sulle tecniche di indagine, uno sguardo molto attento ai rapporti che saranno instaurati con soggetti che ovviamente stanno già occupando di questi aspetti. Quindi diciamo il normale, la Guardia di Finanza, i colleghi. Guardia di Finanza, sì. Agenzia delle Entrate, gli uffici comunali che si occupano di tributi, imposizione e fiscalità, quindi i soggetti che da un punto di vista istituzionale ovviamente già si occupano di queste cose. Devo dire che la Regione Toscana riesce a organizzare dei corsi molto molto buoni e in carenza di risorse per quanto riguarda i comuni, questo ci consente di avere una preparazione professionale e di poter fare dei corsi di ottimo livello con risorse abbastanza contenute. E invece quali saranno poi gli obiettivi che avranno di mira questi futuri agenti anti-evasione che entreranno in funzione tra qualche mese, se ho capito bene? Sì, io credo che dunque noi adesso terminiamo i corsi di aggiornamento nel mese di marzo, primi giorni del mese di aprile, insomma, e quindi io credo di poter essere in grado di poter scegliere poi fra queste persone alcuni che entreranno a far parte di questo nucleo, di questo ufficio. Spererei, cercando di fare il più presto possibile, di iniziare entro i primi sei mesi di quest'anno, quindi entro la fine di maggio. Che cosa faranno? Ma io parto da una considerazione, veda, sì. La polizia locale è la polizia che forse più di tutte è radicata sul territorio, è a contatto con tutte le persone, con le mille realtà che sul territorio si svolgono. Quindi, sì, questo lo sappiamo, insomma, contatti a volte graditi, a volte meno, quando arrivano le multe, però insomma, sempre contatti sono. Questo è l'aspetto forse più antipatico del nostro lavoro, ma al di là di questo, noi ci occupiamo di commercio, di traffico per quanto riguarda anche il trasporto delle merci, attività di censimento di edilizia residenziale pubblica, quindi vede, sono molteplici i campi in cui appunto lavorando si può entrare in contatto con... Quindi per esempio, diciamo, commercio, se io parlo di lotta all'evasione sarà controllo sugli scontrini, controllo sulle fatture, ma anche controllo sui commercianti abusivi, per esempio, queste cose qua? Sicuramente, noi stiamo già da questo punto di vista facendo dei servizi importanti per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, sì, alla vendita, ecco, di merci contraffatte. Su questa cosa della contraffazione, cosa può fare l'agente antievasione della Polizia Municipale, oltre, diciamo, a sequestrare eventualmente qualche borsa a qualcuno di questi venditori? Cioè, si può arrivare poi come dire, un po' alla fonte di questo meccanismo e non so, far incassare anche dei soldi alla comunità, far risparmiare dei soldi o no? Guardi, noi ci stiamo provando, nel senso che abbiamo ottenuto un qualche risultato, ora non lo voglio esaltare, ma un qualche risultato abbastanza importante, cercando di risalire un pochino nella filiera, senza la presunzione di voler arrivare alla fonte principale, perché probabilmente sarebbe difficile, ma ad esempio attraverso il controllo del territorio siamo risaliti a perquisizioni autorizzate dall'autorità giudiziaria in abitazioni in cui abbiamo trovato dei magazzini con depositi di queste merci. Ripeto, probabilmente non è la fonte primaria, è una fonte intermedia, ma insomma è un modo per cercare di salire un pochino più su rispetto alla mera vendita sul territorio, che poi è l'ultimo anello di una catena che presumibilmente ben più consistente e più importante, quindi cerchiamo di fare qualche passettino in avanti anche da questo punto di vista, insomma. Ma come mai non le piace che vengano chiamati 007? Che invece è un nome molto bello. Perché dà l'idea forse di una cosa che parte con una dose di presunzione. Mi piacerà valutarlo sul campo. Da un'idea, diciamo, di macchine di lusso e smoking che di finanziere. No, hai capito, Carlo, il comandante Pucciarelli ha paura di non essere all'altezza di questa fama, quindi dice, certo, prima entriamo in azione, vediamo. Sono, se poi sono un modesto per natura, giusto, cerco... No, ma questi agenti, ma anche io volevo chiedere una cosa sugli agenti, cioè questi 20 che stanno facendo il corso, sì, aggiornamento in città, tutti sanno che sono quei 20 o sono, diciamo, in incognito? Dunque, innanzitutto sono una ventina, ma non tutti andranno a far parte di questo nucleo, ce ne andranno una percentuale un po' più bassa. Non credo che in città sappiano chi sono, nome e cognome, sono alcuni agenti appartenenti al corpo che stanno studiando, che stanno lavorando su questo e che quindi poi andranno a fare questo lavoro, che è anche un pochino più interessante che fare le contravvenzioni per divieto di sosta, cosa che ci rende estremamente antipatici, come avete detto giustamente voi, e quindi diversifichiamo un po' la nostra attività. Diversifichiamo anche l'antipatia, dice. Sì, così siamo antipatici per più motivi. In modi diversi. Senta, sì, senta Pucciarelli, ma lei come, anche come, insomma, libero cittadino, che idea si è fatto di questa questione dell'evasione? Cioè, si può raggranellare molto facendo controlli nei bar e nei ristoranti, facendo 100, diciamo, il totale dell'evasione, quanto si può recuperare in una città come Livorno? Oppure bisogna andare veramente nei paradisi fiscali? E qui ha voglia di 007 la Polizia Municipale, diciamo, sfugge un po' al vostro controllo. Ci vogliono 07 ben più dotati. No, io credo che non sia solo una questione che riguarda gli aspetti del commercio, Io penso per esempio che alcuni aspetti interessanti possano essere tirati fuori, ad esempio, dai controlli e da quello che facciamo sull'edilizia residenziale pubblica. Noi abbiamo trovato persone che abitavano in appartamenti popolari con denunce dei redditi ben importanti, con il macchinone fuori dalla porta, quindi da questo si può risalire anche a aspetti interessanti relativi alla fiscalità. Un altro aspetto per esempio è quello sul trasporto delle merci che noi facciamo e che ci servirà per controllare non solo gli aspetti legati alla viabilità, al cronotachigrafo, a queste cose qua che sono quelle che interessano per quanto riguarda il traffico del traffico pesante, ma anche aspetti legati invece proprio ai commerci, al traffico commerciale che avviene. Quindi sono diversi gli aspetti, non solo quelli del bar, del ristorante, del pubblico. Quindi, ma lei si aspetta di un buon bottino da questo lavoro, insomma, non solo piccole cose, ma anche insomma. Del grano, così. Mi aspetto di contribuire nella mia città a riportare un elemento di sicurezza, di ordine, di legalità, che credo sia un aspetto importante per tutte le città. Senta, ci arriva un sms al 348-8866 di un ascoltatore, Davide Livorno, che è un po' critico, dice che Livorno è la città peggio amministrata del millennio. Lui dice, si firma da Livorno, insomma è sfiduciato, dice è che un pisano, è sicuramente un pisano. Pisano probabilmente sì, richiamate questi 007 tra sei mesi, mi gioco uno stipendio che non partiranno mai. Cioè, addirittura mettono in discussione il fatto che inizierete, dai. Io credo proprio di sì, inizieremo sicuramente, i risultati li vediamo. Io, quando parlavamo prima di quello che mi aspetto, sì, ci metterò tutto l'impegno. Se no ci giochiamo la faccia anche noi di Radio 24, che ci abbiamo creduto. E non le diamo il numero di telefono di chi ha mandato questo messaggio, no, che non vorremmo mai che gli arrivasse un controllo subito. No, partiamo, cercheremo di fare le cose nel miglior modo possibile e quindi sicuramente partiremo. Magari ci risentiamo verso metà dell'anno, così le farò sapere come siamo partiti. Molto volentieri. Va bene. Grazie Livorno, grazie al comandante mille. Pucciarelli. Buona giornata. Tra l'altro bisogna ricordare anche, se lo trovo da qualche parte, me l'ero scritto, che dunque nell'ultima classifica disponibile su questa questione qua, le città che hanno raccolto di più in termini di lotta locale all'evasione fiscale, con questi nuclei anti-evasione che adesso sbarcano anche a Livorno, ma ci sono già in altre città, sono... Non lo trovo, ma sì, eccolo qua, Milano, Torino e Genova erano in testa alla classifica. Dell'evasione? No, del recupero. Ah, del recupero. Grazie a questi nuclei anti-evasione della Polizia Municipale, cioè proprio al lavoro di recupero dell'evasione fiscale a livello locale. Bar, ristoranti, ma anche commercio, qualcosa di più. Vedremo. Dobbiamo risentire il comandante, direi. 800-24-0024, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, vai, intanto il solito ottimismo che regna all'SMS, ci scrive Carlo che dice ci saranno più mazzette ai vigili per chiudere un occhio, ma no. Cioè, c'è sempre una lettura possibile di qualunque notizia. Una tragica e una meno tragica. Esatto, cercando un peggioramento, no, però, delle condizioni. Noi diciamo, si può fare, se no ci chiamavamo, non si va, può tutto molto, va tutto male. Molto male. Più controlli ci sono, mettiamola così, più mazzette uno dovrebbe pagare per coprire le proprie nefandezze. A un certo punto non converrà più, se ci sono troppe mazzette da pagare, converrà a comportarsi in maniera corretta. E questo... È il punto d'arrivo, fila liscio, no? Fila liscio. Va bene. Poi abbiamo Tonio Monda su Twitter che scrive: nel mio comune troppi concittadini si recano, a proposito degli stili di vita sostenibili, in centro con la macchina, lasciandola pure in divieto di sosta. Eppure questo non va bene. Però abbiamo un sms di adesso non lo trovo, ma l'ho letto prima, di una signora di Milano che diceva: ci sono anche persone che usano la macchina perché non hanno possibilità di muoversi, perché e giustamente noi vorremmo dire che non stiamo parlando di chi non ha nessun'altra possibilità e deve andare anche in edicola in macchina, perché non può fare in altro modo. Della gente che è normale, che ha tutte e due le gambe per camminare, e quelli, che fa anche bene. Quelli che se hanno, diciamo, 300 metri da fare, forse è inutile che prendano la macchina. Chiara da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo perché volevo raccontarvi di un mio carissimo amico che ha la passione per i phon. Cioè, lui tiene acceso il phon in casa perché dice che gli fa compagnia e lo fa rilassare. Il phon? Ma come? Il phon? Ma... Quello per i capelli? Sì, esatto. E dove? E lo tiene acceso perché gli fa compagnia? È oltre il televisore? Ma insieme al televisore o solo il phon? No, solo il phon. Ma... cioè, mentre scrive al computer, lavora, legge. Ma sta male questo tuo amico. Ma a quanto pare è una malattia, è tipo una roba psicologica, non è l'unico. È la fonite, che ha bisogno di... Ma cioè, è diffuso proprio per quanto riguarda il phon in particolare, oppure avere rumori di sottofondo? No, per il phon, dice che ricorda tipo i rumori dell'utero materno, non lo so, ho letto qualche articolo. Oddio, ma poi ci vuole il medico, ma però, secondo me. È sempre lo stesso phon o lo cambia? No, lo cambia anche perché... Dopo un po' fonde. Mi ha raccontato che sono pure esplosi certe volte i phon. Ma te pensi che non è innamorato di un phon nello specifico, è proprio il rumore, non è una relazione con un phon, perché il phon è esploso e quindi non c'è più. Va bene, questo era lo spreco denunciato da Chiara, devo dire molto particolare, del suo amico che tra l'altro in buona compagnia pare e ha la fonite. Ma possiamo dare un consiglio? Io direi registrate il suono del phon, fate un bel MP3, lui si ascolta la MP3, non consuma energia elettrica, forse conviene. Carlo, geniale questa cosa qua. Donato da Modena, buongiorno. Buongiorno Salda. Buongiorno. Sono ancora sconvolto per l'ascoltatrice di prima, comunque la mia argomentazione era sui vigili. Sì. Noi speravamo che avesse una storia per ancora cercare più di portarsi a casa il premio, e adesso superare il phon è difficile. Cari ascoltatori. Sì, siamo partiti in salita da questo punto di vista. Secondo me l'avete già venduto, diciamo. regalato. Esatto. Donato, su cosa volevi intervenire invece? Io volevo intervenire sul mio dissenso sulla nuova scelta di applicare la municipale come controllo dell'evasione. Sì, perché dissenso, Donato? Perché io vedo nella mia zona di Modena che la polizia municipale, più che fare repressione, cerca di fare solo cassa. E secondo me finirà nella stessa... Cioè, lei parla della normale attività, quelle di multare le automobili, sì. Cioè, lo scopo principale è fare cassa. Io vedo che noi artigiani ci multano più volentieri perché sanno che noi la multa la dobbiamo pagare per forza. Donato, lei che lavoro fa? Io faccio installazione di impianti. Ok. Faccio impianti d'allarme, impianti di sicurezza in genere. E lei la multano? Ah no, vai. No, perché insomma si sa, quando c'è di mezzo l'artigiano, l'accusa classica è l'evasione. Le assicuro che io, per me l'evasione è il mio nemico principale, perché tutti i miei concorrenti che evadono mi distruggono il mercato, mi è vero, è verissimo. Però lei per me comunque l'evasione principale. Nonostante lei insomma le fatture le faccia e vede in chi evade un suo concorrente sleale, però non è, diciamo, ottimista sul fatto che queste nuclei antievasione possano darle una mano. Guardi, io sono sincero, io per adesso il mio peggior nemico è lo Stato. Perché il mio peggior nemico è lo Stato, perché adesso ha tirato fuori tutta una serie di regole che sono tutte a nostro sfavore, e poi non riesco a capire come facciano a non accorgersene. Ma neanche in questo caso lei lo vede come un alleato lo Stato? Secondo me sì, perché in realtà cosa faranno? Controlleranno noi, che siamo più facili da controllare, invece tutti quelli che fanno il lavoro post lavoro, cioè come secondo, sono più difficili da intercettare. Per esempio? Chi sono quelli che fanno il lavoro come secondi? Ma ci sono molti miei concorrenti, se posso chiamarli così, che non sarebbe proprio il termine esatto, che magari lavorano in un'officina meccanica o lavorano alle poste, anche per lo Stato, non solo per aziende private, che poi la sera te li trovi che vanno a fare impianti elettrici, vanno a cambiare piccole cose. Ah, quelli che lo fanno come secondo lavoro, sta dicendo? Esatto, bravissimo. Quelli sono i nostri nemici principali. In più, a noi ci danno una serie di complicanze, sia burocratiche, sia cose che ci fanno veramente fatica a farci stare nei limiti della legalità, anche perché sono limiti che non sono neanche ben decisi, per cui sì, molto complicato. Va bene, Donato, è chiaro. Insomma, noi accogliamo il grido di dolore anche da parte sua. Comunque, ricordando forse che non è facile, sicuramente. È giusto, quelli che lo fanno come secondo lavoro, è semplicemente che loro sono fuori dalle regole. In questo senso, non è che forse le regole sono sbagliate, è che bisognerebbe che anche queste persone che lo fanno come secondo lavoro si attenessero alle regole, sennò giustamente è concorrenza sleale più che nemici, che sennò poi rischiamo di metterci tutti uno contro l'altro, in più lo Stato come nemico, e finisce malissimo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Noi di Si può fare siamo sempre a caccia di eroi anche della vita quotidiana, insomma persone che con i loro gesti piccoli e grandi cercano di migliorare un po' le cose. Ma stavolta abbiamo un vero supereroe. Abbiamo un vero supereroe che non denuncia chi evade, ma denuncia un'altra cosa. Lo chiediamo a lui, Alfredo Di Domenico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Conosciuto col soprannome di Bookaman. Esatto. Col vero nome, quello è il vero nome, l'altro è il nome segreto che non bisogna conoscere. Stiamo parlando con un supereroe, Alessio. Hai ragione, scusa. Le regole non di base. Bookaman, di cosa si occupa Bookaman? Mettiamola così. Allora, Bookaman si occupa di buche stradali, anzi scusatemi, mi correggo subito, di buche killers, perché le dobbiamo chiamare con il loro vero nome. Buche killer, a Napoli, esatto. In questo caso siamo a Napoli. Mi risulta che è una problematica che nazionale, è comune in molte certo, città, sì, comunque sì. Io parlo per Napoli. Certo. Noi abbiamo visto le foto del supereroe in azione, che fa delle cose incredibili, delle specie di installazioni, si mette proprio in queste buche, si sdraia, ferma il traffico, mette dei cartelli intorno a sé, attira l'attenzione e poi invia la denuncia a chi? Al comune? Certo, allora è vero, noi perché io faccio parte comunque di un gruppo, va bene, Bookaman e Supereroi, abbiamo in effetti utilizzato proprio la strategia dell'ironia, perché è che poi è risultata vincente, visto che siamo poi a Napoli, comunque per forza. Simpatici, certo, simpatici a tutta la cittadinanza che comunque ci riconosce e collabora con noi, perché per me è facile fermare il traffico, quindi ci permettono di fare queste foto. In che senso è facile fermare il traffico? Perché io chiedo un momentino con il ditino di attenzione alla macchina che stavo sovraggiungendo, basta pochi secondi, si fermano, io faccio quelle cose. Però perché lei è un supereroe, perché altrimenti non si fermerebbe. Non credo che fermare il traffico di tutta Napoli con un ditino è davvero supereroe. Perché Alfredo ha un grande carisma e quindi riesce... Esatto, ma Alfredo quando è in divisa da supereroe diventa effettivamente Bookaman, perché io magari come Alfredo sono una persona molto di streda, ma quando indosso quella divisa riesco a fare si di trasforma perché e parla di sé anche in terza persona. Però quindi... possiamo svelare anche un dettaglio della vita personale di Alfredo, perché ha avuto se ho capito bene una figlia che è caduta in una di queste buche. Sì, purtroppo mi è successo, come sta succedendo a tantissimi cittadini, di ricevere quella bruttissima telefonata che ti avvisa di tua figlia è ricoverata in ospedale perché purtroppo ha avuto un incidente, per fortuna non grave. Che sono per fortuna in questi casi non grave, ma è cronaca di questi giorni. Noi abbiamo una signora che praticamente per una caduta da marciapiede, perché le buche si trovano anche sul marciapiede, ha perso un occhio. Senta Bookaman, però le sue denunce che fine fanno? Cioè hanno un seguito? Perfetto. Riesce? Mi ascolti. Allora, le nostre denunce, io parlo sempre a plurale, hanno senz'altro un seguito, tant'è vero che dopo un anno di guerra alle buche, sì, il comune ha dato una risposta, in effetti ha attivato il PIST. Il PIST è un acronimo che sta per pronto intervento stradale, che poi è tutto da migliorare, perché approfitto anche di questo collegamento per dire, ad esempio, noi abbiamo una buca, dobbiamo chiudere della... però dobbiamo chiudere, allora, buca abbiamo una buca all'interno della galleria Vittoria, dove addirittura sono caduti 3 motociclisti nell'arco di 20 giorni. Ecco, l'importante è dire tappate. L'importante è dire che il comune ha attivato questo servizio, grazie Bucamen Alfredo Di Domenico, ci risentiremo magari, straordinario, grazie, a dopo, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'incendio di un tramonto nel buio della sera, la luce dei lampioni su queste strade di cera, guidando verso nord in un lunedì da cani, comete di ricordi ad indicare il mio domani. Il tempo passa dritto, non prova nostalgia, e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria. Generazioni in ciclo, con le loro convinzioni, che mescolano i sogni a una manciata di canzoni. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada in fiamme con curve di miele. È una tempesta, è un tuffo dentro un cerchio di fuoco. La vita è un gioco, la vita è un gioco da eroi. Ma l'amore ci dilata, sciogliendo i nostri cuori, trasforma i nostri giorni in una pioggia di colori. Negli occhi di tuo figlio rivedi la tua infanzia, distese di conquiste e ceri di speranza. Questa è Si può fare, questa che avete ascoltato è Il gioco dei Negrita, è il nostro Si può fare in musica, una canzone che ci è stata segnalata da, il nostro ascoltatore Christophe Sanchez, e vi ricordiamo che potete sempre ricordarci e segnalarci i vostri Si può fare in musica, lo potete fare sui nostri account social, quindi sulla nostra pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è Radio che è Si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini e quello di Alessio è chiocciola Ale Maurizi. L'ascoltatore che dice questa canzone, insomma, lo fa pensare al fatto che la vita è come un gioco fatta di amarezze ma anche di allegria, speranza e bei ricordi, ha detto così e noi lo riportiamo. Esatto. Giustamente. 800240024, questa mattina vi stiamo anche aspettando, cari ascoltatori. Intanto non ha chiamato ancora nessuno sul Papa, perché volevamo capire un po' anche come vi sentite, fedeli insomma cristiani che andate alla messa dopo queste frasi importanti del Papa, e poi soprattutto per giocare con noi. Oggi abbiamo messo ancora una volta in premio un palio dell'Associazione Comuni Virtuosi, un cesto di prodotti biologici, e ci aspettiamo soprattutto che chiami il Papa. Abbiamo lanciato questa cosa dicendo che cosa ne pensate del fatto che lui abbia detto il mio sarà un papato breve, ma noi ci aspettiamo che chiami direttamente lui. Poi mi scrivono anche sul mio Twitter personale: confermo la storia del fono, amici universitari che studiano solo con fono acceso, ecco, dicono vedi. Il rumore, il tepore mi rilassa, mi dice Edoardo Rosso. Abbiamo su scoperto Twitter una cosa in più, e in tanti lo dicono, perché anche su anche negli sms alla trasmissione dicono: a noi è stato consigliato di accendere il phon per far dormire la bimba insonne. L'avevo sentita anch'io questa cosa, ed qua si chiama aspirapolvere. I rumori bianchi sarà rilassante, però non è sostenibile dal punto di vista dei consumi, e di questo proprio oggi vogliamo parlare con voi in occasione di Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico che si svolge proprio a Milano fino a domani. Vi chiediamo, insomma, quali sono gli sprechi più intollerabili delle persone che conoscete, dei vostri amici, il vicino di casa che va a prendere il giornale con l'auto, oppure il figlio che si fa la doccia con l'acqua corrente per mezz'ora, uno spreco intollerabile. E allora chi abbiamo adesso che ci sta chiamando? Piera da Milano, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Allora, vi racconto, noi siamo, diciamo, di mezza tre quarti età e abbiamo una compagnia teatrale amatoriale da tanti anni. Sì. Uno dei nostri scrittori di testi, cioè di commediografo, è una persona molto particolare. Tutti quelli, gli attori sono tutti un po' particolari, ma lui lo è in modo speciale. Sta parlando di me? Perché, è particolarmente particolare. Perché? È particolarmente particolare perché le sue commedie le scrive in un modo strano. Cioè ogni battuta, ogni frase, lui non scrive col computer, scrive a mano. Mm-hmm. Sulle reti di carta. Che bello. Ogni battuta ha una pagina intera. Succede che quando ha finito di scrivere la commedia sono circa 10 risme di carta. Ah, per cui perché tutto il resto della pagina è vuoto. Una sola battuta per ogni pagina. Che la battuta deve respirare. Deve avere spazio, non è sbagliato. Ma forse anche. Ma non è che ha un problema anche di vista? Perché se non ricordo male, chi era D'Annunzio che scrisse tutta un'opera su dei foglietti singoli perché era sdraiato a letto e vedeva male. Però scusi, Piera, a lei questa cosa non va giù, vero? Perché uno se lo considera uno spreco. Quando dobbiamo leggerli, quando c'è la legge prima, poi di farla battere a quel poro Cristo che deve rimetterla sul computer, stiamo lì e vediamo queste risme di carta, ci viene male perché ogni frase poi le butta per terra, le legge e dice la frase deve respirare, noi diciamo ma perché non le mette almeno qualcuno e più no? Però anche rispondeteli che dobbiamo respirare anche noi, però, perché se respirano solo le frasi tutto il resto del pianeta, tutto il resto del pianeta sì. muore, poi magari le sue commedie non ci va nessuno. Grazie Piera. Lui è uno spreco intollerabile, sì, però ha ragione. Noi vogliamo bene, lo sopportate, però era giusto in questo contesto stamattina in cui vi chiediamo proprio di denunciare gli sprechi intollerabili, farlo come ha fatto Piera. Grazie. Bisogna iniziare a spezzare le manine forse a un drammaturgo, così no? Così uno spezza un dito e poi dice usa tutto il foglio. Sto dicendo delle cose troppo cattive, con questi elementi di disincentivazione, può darsi. Stefano, esatto. Da Torino, buongiorno. Ciao, sono Stefano da Torino. Buongiorno. Allora, io volevo parlare a proposito delle piccole evasioni che si parla. Io sono un commerciante, sì. Una piccola ditta. Sarà almeno 20 anni che nessun cliente mi chiede di acquistare senza fattura. E sono gli stesso periodo, almeno da 20 anni, che nessuna persona mi chiede di fargli una fattura quanto per poi evadere. E questo è un punto. No, non ho capito, lei le chiedono o no di fare la fattura? No, non me la chiedono. No, non gliela chiedo. Ma lei dovrebbe farla anche se non gliela chiedono, però non è no, che. No. Allora, se io vendo sempre con fattura, perché compro e vendo con fattura. No, scusi, allora non ho capito più nulla, Stefano. Lei compra e vende con fattura. Mi pare logico. E quindi cosa voleva dire invece sul nucleo antievasione della polizia fiscale di Livorno? Esatto, su questo io, lo stesso periodo, non ho mai trovato un bar che non mi rilascia la ricevuta. Ma neanche ai mercati, che vai a comprare un chilo di frutta. Tutti fanno la ricevuta. L'ho fatto di proposito, voglio vedere se mi fanno la ricevuta. E gliela fanno. Ma sempre, non ho mai trovato, perlomeno una volta in 20 anni. Ma cioè, gliela fanno o non gliela fanno lei la ricevuta? Gliela fanno sempre. Ottimo. Va bene, Stefano, lei ha un carisma, un karma tale per cui quando la vedono tutti fanno lo scontrino. Alla faccia da poliziotto magari. Però io non li trovo queste cose qua, era solo questo che volevo dire. Va bene, insomma, secondo Stefano questa, diciamo, iniziativa della ultima Livorno ma anche di altre città potrebbe essere rivelarsi inutile perché tutti fanno lo scontrino. Ma non, secondo me non l'abbiamo capito giusto, non ne sono così convinto. Però guardi che anche agli altri ascoltatori non è solo sullo scontrino del bar che andranno a fare controlli, ma anche su altre cose, sul commercio, sul trasporto di merci, per esempio sulle occupazioni abusive delle case. Quindi è una cosa un po' più vasta questa iniziativa. Il nucleo antievasione della polizia municipale di Livorno. 800 24 00 24. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare, si può fare, si può si può fare. Cronache da un paese migliore. This dance was meant for you. This dance was made for you. This dance was meant for you. This dance was made for you. This dance was meant for you. This dance was meant for you. This dance was meant for you. Everybody feel it. Do the right thing. Reapers of the brand new dance. We are like the sweet, sweet. Me want to see everybody and do the right thing. Follow ding dong and mundo when them a tweet, tweet. Dance from you know this one was meant for you. Do the right thing, do the right thing. Right crew with the right swing. Bing. No matter the bag of wood where them a fling, cause the one you lock and cookie up straight to Beijing. Clap your hand and part the crowd with the gravers. Find it again, Mundo, you did it. Call them in young ravers out with it. Do the right thing, take the floor and walk with it. Do the right thing. Ravers of the brand new dance. Where you lock the sweet, sweet. Me want to see everybody and do the right thing. Follow ding dong and Mundo when them a tweet. You cannot be amazed, bend your back, call them in and put your one over your ears. Do the right thing, the one you have the whole place ablaze. And if you're bad minded, it'll go bubble up your dirty wheels. Pull up the right tune at the right time. Dance out of them, looking at them right mind. Everybody. Anche se non totalmente decifrabile, questo Elephant Man dice do the right thing, fa la cosa giusta. Oggi siamo partiti proprio da qua perché si sta svolgendo a Milano la 12ª edizione della Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili. Fa la cosa giusta. Noi abbiamo con noi in studio una persona che cerca di farla la cosa giusta. È Davide Zenoni, presidente della cooperativa È Nostra. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Una... È qui con noi, abbiamo finalmente l'ospite in studio, l'ospite che è sempre studio, una cosa bellissima. Bello, anche perché fa la cosa giusta è a 200 metri, 300 metri da qua, si svolge a due angoli di strada. Stai dicendo che non abbiamo nemmeno dovuto pagare un taxi? No, esatto, ha fatto tutto da solo. Era un'informazione interna a Radio 24 dicendo non abbiamo sprecato soldi di Radio 24. È Nostra, prima cooperativa in Italia senza scopo di lucro che fornisce elettricità sostenibili ai propri soci. Di che si tratta? Elettricità sostenibile. L'elettricità sostenibile in realtà è elettricità da fonti rinnovabili, con l'aggiunta che sono impianti da fonti rinnovabili di un certo tipo, tendenzialmente piccoli, locali e promossi da o cooperative o comunità locali. Per cui l'idea è quella dei cittadini che si impegnano anche nella produzione di piccoli impianti da fonti rinnovabili e in qualche modo realizzano degli impianti più compatibili col territorio. Facciamo degli esempi, pannelli fotovoltaici, pale eoliche o anche altro? No, le fonti sono tutte, dai pannelli fotovoltaici alle pale all'idroelettrico. Il punto fondamentale è la selezione e la valutazione che noi faremo di questi impianti. Avremo dei criteri molto selettivi, per dire non accetteremo mai del fotovoltaico di larga scala su dei campi utilizzabili. Perché? Perché ha un impatto dal punto di vista ambientale troppo, per noi troppo significativo. Cioè il vantaggio della produzione da rinnovabile rispetto all'occupazione del suolo. Cioè se io riempo un campo coltivabile a grano o a qualcos'altro di pannelli fotovoltaici, voi accendete una lampadina rossa e dite... Assolutamente no, non compriamo da quell'impianto. È un po' lo stesso principio per cui molti agricoltori adesso stanno lavorando su produzioni di biomasse apposta per la valorizzazione energetica. E giusto, giustamente questo per noi è un po' un controsenso, quindi è corretto che la produzione agricola rimanga, diciamo, nel proprio ambito. Perché secondo voi, per esempio, questa questione della dimensione è importante nel campo energetico? Cioè piccoli ambiti di produzione energetica sono migliori di ambiti più grandi? Sì, purtroppo si perdono un po' di economie di scala. È logico che un grandissimo impianto ha delle economie di scala, quindi in termini di efficienza si perde qualcosa. Però altrettanto vero che un grandissimo impianto, per quanto sia ad esempio da fonti rinnovabili, pensiamo a un grosso impianto offshore di eolico, genera un impatto sul paesaggio decisamente eccessivo. Questo è il motivo per cui siamo favorevoli a una generazione distribuita su piccola scala, tarata un po' sulle esigenze delle comunità locali. Cioè l'idea è quella di creare dei circoli virtuosi per cui io partecipo alla produzione, dimensiono l'impianto in base alla domanda locale e poi in qualche modo consumo quella stessa, certo, energia. È un po' una visione idilliaca un po' anche, no, della comunità locale, dell'autosufficienza energetica, di non avere impatto ambientale, però immagino già, insomma, le perplessità di chi dirà: beh, ma insomma questo va bene per il consumo di casa, per il tostapane o per il forno di cui parlavamo prima, esatto. Ma non per l'industria, non per i grandi bisogni energetici, eccetera eccetera. Cosa rispondete voi? È vero, in realtà in questa prima fase noi abbiamo organizzato questo sistema di acquisto e di vendita solo per il domestico, quindi soltanto davvero per il phone e la luce di casa, anche perché riteniamo che, essendo un'impresa di comunità e di cittadini, abbia molto più presa se è rivolta alle persone fisiche. In un secondo momento ne escludiamo però di poter vendere anche a imprese, persone giuridiche, partite IVA. Ovviamente non è un problema di scala, perché in termini di produzione anche di energia rinnovabile ce n'è moltissima in Italia, quindi si tratta semplicemente di selezionare quegli impianti più meritevoli. Ma scusami, io sono lo stupido dei due, devo chiederti questo, nel senso che viene da voi il privato cittadino, uno che dice: io vorrei consumare dell'energia più sostenibile, siccome tutti parlano di energia sostenibile, però ormai anche tutti i giorni apriamo il giornale e diciamo: questo qui dice che è sostenibile, ma in realtà sta rovinando l'agricoltura, sta facendo dell'altro. Viene da voi e dice: aiutatemi. Sì, no, la cosa bella è che in realtà non è che viene da noi, si attiva lui in prima persona e, diventando socio, bisogna diventare soci. Sì, bisogna diventare, perfetto, soci, perché è una cooperativa. Ecco, diciamo socio, intanto questo: bisogna diventare soci, quindi dove si va? Sul sito? Si va sul sito di www.enostra.it, sì. C'è una piattaforma, un sistema di adesione online, okay, in cui si manda la domanda alla cooperativa, si può aderire. Ridì il nome del sito, che io non l'ho capito. www.enostra.it. Ah, Enostra. Sì, senza, okay, accento. Perfetto. L'energia, sottinteso, è nostra in qualche modo. Energia, sì, nostra. Energia nostra. Però solo la E. E il punto è proprio questo, cioè il cittadino diventa socio e in qualche modo si attiva, e non è più un consumatore passivo, ma sceglie insieme all'assemblea, insieme agli altri soci, dove andare a comprare l'energia. E si mette a pedalare con la dinamo, diciamo, sì, per farla semplice. Sì. Allora, Davide, c'è un ascoltatore, Riccardo, da Mantova, che dice: ma come fate effettivamente a comprare all'SMS questo, l'energia da un determinato impianto e poi rivenderla? Sì, credo si riferisca a un problema di rete. È logico, sì, che rispetto a vecchie cooperative arco alpino che hanno una rete propria, le nuove cooperative energetiche non possono avere una rete. Avete una, vi appoggiate dobbiamo alla utilizzare rete, la rete nazionale. Quindi noi facciamo dei contratti bilaterali con i produttori, piccoli produttori, passiamo necessariamente dalla rete nazionale e, in qualità di reseller, si chiama tecnicamente, la vendiamo ai nostri soci. Quindi, diciamo, aiutate anche quei piccoli produttori che hanno messo su degli impianti di produzione energetica sostenibili, cioè pannelli fotovoltaici che non hanno tolto spazio ad altre coltivazioni, sappiamo quanto l'agricoltura sia importante per l'Italia, oppure pale eoliche che non deturpano il paesaggio magari di un qualche cittadina medievale che si basa anche sul turismo o cose di questo genere, li aiutate, perché li trovate sostanzialmente dei clienti che possono essere anche dall'altro capo della nazione. Sì, perché poi lo scopo fondamentale è che questa domanda di energia fatta in questa maniera sia in grado di promuovere ulteriore produzione, no? E quindi di espandere un sistema produttivo completamente diverso da quello delle grandi centrali, perché lo scopo ultimo, la cooperativa, la transizione energetica. Ma nel momento che voi trovate un produttore di energia elettrica che dice di essere sostenibile e in realtà voi non lo reputate tale, come agite? Noi in realtà accetteremo delle indicazioni. Vi girate sdegnati, lo salutate, arrivederci. Andiamo a comprare delle pile, no, da un'altra parte. Abbiamo dei criteri di screening iniziale, sì, e poi invece viene fatta una valutazione molto più rigorosa. Però è come se gli deste un voto, quindi sì, no, perché mi chiedo questo, perché mi sembra che andate a infilarvi giustamente anche in un vuoto, perché forse dovrebbe essere lo Stato il a rating, dare la patente, esatto, giusto, a dare, sì, il bollino, la patente, il rating, sì, e in qualche modo lo fate che... voi questo. Quello che mi chiedo è se questa cosa poi ha delle conseguenze, cioè se voi comunicate a qualcuno quel produttore di energia in realtà non è vero che produce energia sostenibile. Non voglio portarti alla delazione, però volevo capire. Se, no, in realtà noi ci poniamo un po' in modo positivo, no? E quindi cerchiamo di proporre delle cose senza stare a criticare quello, certo, che non viene fatto e non c'è. Noi interessa questo, facciamo così, questa è la nostra, sì, scelta, però sì, non diamo patenti anche negative a qualcun altro. Adesso parliamo anche del risparmio, però, che ci può essere per il consumatore, perché questo è un aspetto fondamentale. Prima però vorrei sentire qualche ascoltatore che c'è, che ha abboccato, diciamo, al nostro gioco sul insomma gli stili di vita sostenibili, e denunciare anche quello che c'è che non va nei comportamenti altrui, così magari lo commentiamo insieme. Angelo da Pisa, buongiorno. Eccomi, io ho boccato anche perché faccio di cognome anche pescatore, quindi... Hai visto? Non è boccare per forza. Mi sa che abbiamo boccato noi se fai pescatore. Beh sì, ma solo di nome, perché ci ho provato e non mi rende. Dici, raccontaci, raccontaci, allora, la tua delazione. È una cosa che è nata sin da quando sono cresciuto con i miei genitori e in particolare con mio padre. Praticamente non sopportavo vederlo quando si faceva la barba, dal primo taglio del primo pelo all'ultimo taglio dell'ultimo pelo, praticamente teneva acqua, il rubinetto aperto, corrente. Quanti peli aveva? Esatto, la domanda è quella. Perché per io ne ho tre. Per fortuna poi ha deciso di farsi crescere un po' il pizzetto, quindi ha diminuito, diciamo. Quindi avete cominciato a risparmiare sulla bolletta dell'acqua. È iniziata la ripresa del paese. Sì, però ho escogitato io una cosa che lui è una sorpresa, che per lui ancora non lo sa. Ah, ancora non lo sa, sentiamo. Ah. No, perché praticamente ora ho già comprato, ho già organizzato tutto per fare quando lui andrà via per una settimana in vacanza. Sì, metti un rubinetto da un'altra parte. No, sostituisco il suo rubinetto con quello tipo, quello che si trova nell'autogrill, sai che sono a sensore? Ah certo, che no. Dopo un po' si spegne, si chiude. Ma è di una scomodità totale. Però con risparmio, geniale. Ho capito che risparmio, ma se anche in casa tua ti senti in un autogrill, però mettigli anche la gettoniera che deve mettere 60 centesimi quando entra nel bagno di casa sua. Ho capito, però c'è la possibilità di metterlo fisso o decidere di metterlo col sensore, c'è la possibilità di scegliere nell'utilizzo del rubinetto. Angelo, ma in quanti siete in questa casa? No, ma considera che io non ci sono più con loro, è una sorpresa che gli faccio trovare quando tornerà. Ma chi vive con tuo padre ancora? Mia madre. Lei che ne pensa di questa cosa? Non lo sa, no, sono ignari. Non lo sa neanche lei. Ha un altro rubinetto tua madre, secondo me. Sarà una sorpresa per tutti. Grazie, Angelo. Io faccio fare un altro bagno. Beh, insomma, è un consumo anche come quello. Come fai a fare un altro bagno? Per far cosa? Uno per la madre che non ha il problema della barba, che non spreca. Se non gli piace il rubinetto. Va bene, grazie Angelo. Grazie mille. Ma chiediamo al nostro esperto se è un buon sistema quello di mettere i rubinetti col sensore. Non ho più pallida idea, forse consuma energia elettrica, non ho idea, quindi alla fine non conviene. C'è un sensore pazzesco, per cui dopo devi aumentare. Costa di più l'acqua o l'energia elettrica? L'energia. Costa l'energia, sì, assolutamente. Al consumatore, perché... però anche l'acqua ha un suo valore, ricordiamolo, certo. Ed è una cosa che colpisce molto lo spreco dell'acqua, forse più addirittura di quello dell'energia. Stavo pensando una cosa, sempre abbastanza stupida. Uno che fa scorrere molto l'acqua, invece che mettere il sensore, se mettesse una piccola turbina sotto quell'acqua che scorre, perfetto, potrebbe ricaricare perlomeno il rasoio elettrico, è giusto? No, è grandissima idea. Ne approfitto perché abbiamo qua un tecnico, quindi sarebbe micro turbine per quando lavi l'insalata. Sarebbe una soluzione. Quei cosi che divideva, che i frangiflutti, no? Che facevano un effetto di acqua maggiore con acqua minore. Io ce l'ho in cucina, ce l'ho. Quella è una cosa che costa anche meno, credo, della cellula. 4,75 euro l'ho pagato. Vedi? Il frangiflutti. Davide Zenoni, presidente della cooperativa È Nostra di energia sostenibile. Dicevamo, però il risparmio, il tema del risparmio, quanto, facciamo una stima, quanto può arrivare a risparmiare una famiglia di 4 persone, mettiamo che si vuole allacciare anche a un sistema come il vostro di energia sostenibile, che promette sì di rispettare l'ambiente, il pianeta, quindi una cosa giusta in cui credere, ma anche però, e spesso vanno di pari passo queste due cose, di risparmiare qualcosa. Sì, noi stiamo facendo una scelta un po' particolare. Abbiamo promesso un prezzo che ovviamente dipenderà dal numero di soci. Cioè più saremo in grado di ridurre il prezzo dell'energia. E questo è un elemento importantissimo. Quindi se il progetto se il progetto sarà virale, saremo in grado davvero di far pagare l'energia molto poco, perché nessuno fa profitto da questa attività. In realtà in giro si trovano moltissime offerte commerciali tipo abbassa il prezzo dell'energia. Però il prezzo dell'energia sulla bolletta pesa molto meno di quello che è il 100%. E questo significa che è molto più conveniente lavorare sulla riduzione dei consumi. Cioè l'efficienza, 10% di riduzione di consumo in realtà ti rende il 13%. Per cui quello che noi faremo, partendo da un prezzo che è quello di regime di maggior tutela, sarà quello di promuovere l'efficienza e la riduzione dei consumi, per far capire che... Fate le consulenze anche alle persone. Assolutamente sì. Ma perché? Anche a livello di singola famiglia, di una... Cercheremo di farlo con un sistema anche di application, o vediamo, insomma, troveremo un sistema di contatto diretto. Beh, sarebbe intanto, molto bello, sì. Una cosa fondamentale che hai detto, perdonami, ti do del tu, è il fatto che nessuno fa profitto da questa attività, cioè è una cooperativa, giusto? Sì, è una cooperativa. Senza scopo di lucro. Senza scopo di lucro, cioè non è che sono delle persone che hanno detto vi facciamo risparmiare e poi prendiamo un pezzo del risparmio che vi diamo. Ci mettiamo tutti insieme per risparmiare tutti uguali. Sì, più che per risparmiare, come dicevo, è prima di tutto per cambiare il modo di produrre e consumare energia, giusto. E anche poi di risparmiare in termini economici. Perché ovviamente l'elemento valoriale è quello, certo. Ciò significa che non costerà di più. Grazie Davide Zeroni, presidente di E Nostra. Resta in nostra compagnia, tra l'altro, se vuole, poi lo lasciamo andare a fare la cosa giusta tra poco. Noi invece tra poco grazie andiamo a scoprire se è possibile pedonalizzare il lungomare di Bari. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Business calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to, now I'm running out of lies. It's a clear view with all you eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run, run, run, run. I think I better run, run, run, run. Didn't catch me falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling. Contradictions get me everything I want. I'll let you know, but I think it's gonna take a while. It's a clear view, no one's waiting at the door. A million letters, they couldn't make me change my mind. I think I better run, run, run, run. I think I better run, run, run, run. Didn't catch me falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling. How you want it to be? E buongiorno al sindaco di Bari, Antonio De Caro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, su questa Run Run Run dei Phoenix, un gran bel gruppo francese, mi piacciono molto. Io non posso dirla così tu, bene come la dici tu. Non puoi permettertelo, parliamo di questo. Insomma, dopo il successo della DJ Ten, la corsa 10 km a Bari sul lungomare, un sacco di partecipanti, domenica scorsa sale un grido popolare. Sindaco, pedonalizziamo questo lungomare, ci faccia correre tutte le domeniche a tutti i runners, ma anche a tutti i ciclisti, la domenica sul lungomare, bellissimo, anche tra l'altro, tutti i pedoni. E anche tutti tutte le domeniche, non so se ci riusciamo, però già questa domenica c'è un'altra corsa, credo che in questo periodo tra la primavera e l'estate ci sarà, si spinge, almeno si spinge una molto due settimane. Anche perché il sindaco di Bari, a prescindere da questa richiesta che arriva, insomma, come molti altri sindaci, devo dire, di tutti i colori politici, si è interessato a questa questione della qualità della vita, della pedonalizzazione, della, insomma, dell'attenzione all'ambiente. Ne state facendo di cose, magari tra poco ne parliamo, però è proprio venuta fuori una, insomma, una richiesta, una grande. Quante lettere ha ricevuto? Ci sono migliaia di ciclisti e di runner che mi hanno mandato un'email, però diciamo che con me giocano facile, nel senso che prima di fare il sindaco ho fatto l'assessore al traffico e sono la persona che ha pedonalizzato due terzi del centro storico e sta continuando a pedonalizzare alcuni tratti di strada all'interno del quartiere centrale vicino al centro storico, che è il quartiere Muratti. Quindi diciamo che è una scalata è una scalata verso la pedonalizzazione. Diventerà primo ministro e pedonalizzerà tutta Italia, giusto? Noi non vediamo l'ora. Sì, a me piacerebbe poter pedonalizzare tutto. È chiaro che man mano che uno pedonalizza deve dare un servizio alternativo, deve dare servizio di trasporto su gomma, sì, dei parcheggi di scambio. Noi parliamo, io dico questo perché noi ne facciamo anche un po' una battaglia su questo, però vivendo a Milano, città dove mezzi pubblici non mancano, città in pianura dove si può pedalare, eccetera eccetera, allora, e dove le macchine sono già tantissime, sembra più fattibile meno, che in altri posti, sembra fattibile, sembra interessante. Certamente chi vive in campagna o in qualche paese arroccato sulla montagna farà meno della macchina, più è più difficile. Nella mia città è ancora più facile che a Milano perché è pianeggiante e c'è il bel tempo per due terzi dell'anno, quindi... e c'è il mare poi. Però sindaco, ci dica questo, tutte le domeniche lei ha detto no, non questo non si può fare, no, subito perché ci sono... purtroppo il lungomare è un asse di scorrimento di penetrazione nella città, quindi non posso farlo tutte le domeniche, però diciamo che per due o tre domeniche di seguito adesso già questo mese c'è la chiusura, ma... per alcune ore durante le giornate della mattina. Mi dicono fonti informate che insomma si starebbe anche un po' lavorando all'ipotesi di cominciare almeno con una domenica al mese, che potrebbe essere un po' un'apripista, è possibile? La mia proposta è stata una domenica al mese ed è assolutamente possibile, sì. Ma da quando però? Da quando? Ma già dal mese prossimo. Ah, quindi la notizia potrebbe essere questa: da aprile una domenica al mese, quale? Avete già pensato quale? La prima, la seconda? Cerchiamo di farla coincidere magari con qualche iniziativa, nel senso che se c'è una corsa che dura due ore, chiudiamo comunque tutta la giornata e animiamo la strada con la corsa e quando finisce la corsa con altre iniziative. Beh, c'è la Pasqua come iniziativa che hanno messo ad aprile quest'anno, quindi nel caso potete approfittarne. Va bene. Ma come sono le reazioni? Perché di solito a Milano quando avviene le famose domeniche a piedi ci sono i commercianti che non sono d'accordo, quelli che hanno il negozio, quelli che, insomma, un sacco di lamentele. Da voi com'è? Io ho avuto le lamentele nel passato, però chiudevo quattro quartieri contemporaneamente la domenica, facevo la cosiddetta domenica ecologica, nel senso che chiudevo completamente quattro quartieri, non era possibile utilizzare l'automobile nemmeno per chi abitava all'interno, ma era legata al tema delle polveri sottili, perché superavamo già a febbraio il limite massimo dei 35 superamenti. Sì, il PM10. Oggi per fortuna non è più così, non superiamo quelle 35 volte, non le superiamo più nemmeno nel corso dell'anno, ma abbiamo costruito due metropolitane, i parcheggi di scambio, si è rinforzato un po' il trasporto pubblico, anche se sta soffrendo negli ultimi mesi per carenze di finanziamento, però insomma è migliorata tanto. Quindi sono tutti contenti di fare quelle domeniche? No, quando chiudiamo, tipo per la DJ Sen, sono stati tutti contenti perché c'era un fiume di persone con la maglietta celeste, è stata una giornata straordinaria per la mia città. Cioè, poi il sole non manca quasi mai a Bari, quindi immagino proprio il clima meraviglioso. Fortuna, la DJ Sen ha portato il sole fino al giorno prima, pioveva, il giorno dopo. È stata una bellissima giornata. Correre fa sempre bene a tutto. Senta, sindaco, per farci conoscere. Sì. Insomma, visto che le auto blu non godono di grande fama, diciamo, tra i cittadini, è per questo che vi state dotando delle biciclette blu? Sì, abbiamo acquistato delle biciclette elettriche che metteremo a disposizione più che altro dei dipendenti, perché io e gli assessori abbiamo la nostra bici, in particolare ho quattro assessori su nove che si spostano solo con la bicicletta e quindi adesso la mettiamo a disposizione anche dei nostri dirigenti, dei nostri funzionari. Ma quelle a pedalata assistita un po' elettriche? Sono a pedalata assistita, sì. E quante ne avete messe in giro a disposizione? Ne abbiamo messe in giro 50, ne stiamo per mettere in giro, sono arrivate, le stiamo montando, sono 50. Beh, insomma, non so un po'. Sono a disposizione della polizia municipale che lavora nel centro cittadino e dei dipendenti del comune. Te pensa che bello, lungomare, pedonalizzato, gente che corre, i vigili che girano con la bicicletta pedalata assistita, elettrica. Ho provato a correre una calma. Sì? Ho fatto 10 km, volevo morire. Sì, sono com'è andata? Fine, però. Finito? È andata bene, nel senso che li ho fatti 10 km, li ho fatti in un'ora, 9 minuti e 37 secondi. Che comunque mi dicono che per chi non è allenato è comunque un tempo dignitoso. Il problema è che quello che ho Pantani, ma va bene. È quello che ho fatto anch'io alla mia prima maratona 10 km qua di Milano qualche anno fa. Io il problema è che volete mettermi in mezzo. E io non lo faccio. Sembravo un robot, si era bloccato tutto. Va bene, insomma, staremo a vedere. Intanto la notizia possiamo darla: il comune di Bari lavora per pedonalizzare una volta al mese il lungomare. Sì, questo sì, si può assolutamente dire. Assolutamente sì. Riguardo alle lamentele, è chiaro che se chiudiamo tutte le domeniche poi si arrabbiano le persone che abitano lì, perché chiaramente quella è già una zona oggetto di richieste di pedonalizzazione per gli eventi, facciamo gli eventi anche durante la settimana, sì. Se poi decidiamo di chiuderla davvero una volta alla settimana, anche di domenica, diventano due volte, in alcuni periodi dell'anno anche tre volte alla settimana le chiusure, e ripeto, le persone che abitano lungo quel percorso, lungo il lungomare, poi non riescono mai ad uscire di casa, però penso che una volta al mese si possa fare, sì, senza creare grossi problemi. È giusto, si può fare, si può andiamo assolutamente per gradi, fare, vediamo si come può funziona, fare. Grazie, grazie sindaco, sindaco. Tra l'altro, ieri sono stato intervistato da quelli, dai ragazzi di Radio Frequenza Libera, che è la radio del Politecnico di Bari, e quindi volevo dire al sindaco che glieli saluto io, perché saranno a Radio City tutt'oggi e tutto domani, perché Radio City va avanti fino al 15, con cui ci colleghiamo tra pochissimo con Massimo Cirri, niente po' di meno che, per parlare della radio della salute mentale. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Massimo Cirri. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Una grandissima voce della radio, è un grande piacere averlo qua, ma è anche tanto. Grazie. Anzi, siamo quelli della radio minore, volevo Bravo, dirti. Sì. Siamo quelli della radio minore che volevamo sentirti. Me l'ha detto, sai che ho detto raccontato così. Che ieri, quando mi hai intervistato a Caterpillar, giustamente hai detto che siamo una radio minore. Certo, ma di fronte a Caterpillar chi può essere maggiore? Non esiste. Politica aziendale, abbiamo dato della radio minore anche alla BBC, ci stanno citando in tribunale. Perfetto. Però, facciamo i grossi senza esserlo, ci gonfiamo l'ego. Fate i grossi con le onde degli altri. Allora, esattamente. Mettiamo un po' d'ordine. Massimo Cirri, conduttore radiofonico, naturalmente Caterpillar, ma anche tante altre cose, psicologo e animatore di tante cose che hanno a che fare con la salute mentale e le radio della salute mentale. Oggi a Radio City, cioè, sei riuscito a mettere insieme quante radio? Guarda, è una cosa meravigliosa. Io credo, adesso è arrivata TLT di Iesi, TLT sta per Radio Tana Libera Tutti, e quindi dovrebbero esserci 23-24 radio della salute mentale, cioè 23-24 persone. Io credo che siano tutti, mancano solo quelli di Radio Shock di Piacenza che sono rimasti scioccati. Sono tutti quelli che in Italia si mettono davanti a un microfono, raccontano intorno alle questioni di salute mentale, partono da quello, fanno radio e fanno delle cose bellissime, perché sì, così rimaniamo tutti in un circuito di comunicazione, che certo, è quello che dobbiamo fare in ogni caso. Allora, intanto voglio salutare anche invece i miei personali amici di una di queste radio, che sono Collegamenti di Pisa. Di Pisa, ci sono. Trattami bene anche, perché c'è un pezzo di famiglia là dentro, mia sorella è una educatrice, un'operatrice. Ci siamo conosciuti ieri sera perché il Dipartimento di Salute Mentale ha fatto una bellissima cena qui vicino a... La cosa è che ci sono conosciuti anche con quelli di Radio Collegamenti, sono tantissimi. Sono arrivati ieri, un po' dopo, anche il gruppo di Lecce, erano partiti in pulmino alle 8 del mattino, sono arrivati alle 8 di sera. Ci sono quelli di Radio Liberamente di Modena, ci sono quelli di Radio Home di Torino, ci sono quelli di Nuvole Passeggere di nomi di straordinari, Perugia. Senti che nomi, i nomi sono i più belli. Allora, diciamo anche una cosa, alcune di queste radio sono in streaming, poi questo non importa perché tra l'altro andiamo verso un'epoca in cui si fonderà tutto nel digitale. Altre radio sono radio più classiche che hanno programmi eccetera eccetera. Sappiamo da varie esperienze, tu protagonista ma anche all'estero, in Italia da tanti anni, che le radio sono terapeutiche anche per chi soffre di un disagio mentale, passa attraverso periodi più o meno lunghi di disturbi di questo tipo. Però perché è anche bello per chi ascolta queste esperienze radiofoniche, quindi al contrario, Massimo? No, io credo che sia bello perché attraverso questi racconti passano dei pezzi di umanità, dei pezzi di conversazione. Ieri mentre eravamo a cena con le radio che sono arrivate, abbiamo fatto anche lì, abbiamo fatto una radio cena in onda su streaming, in streaming su alcune di queste radio, in cui le persone, le radio si presentavano e uno, non mi ricordo se era di Radio Web di Roma o la tribù del Matto Contatto, Radio Panda, ho perso il conto, diceva: da quando parlo in radio parlo un po' di più. E in questo c'è un processo di, come dire, di liberazione, perché poi che riguarda tutti, e questa è la cosa bella, perché non soltanto chi appunto soffre di un disagio mentale, ma anche chi non è toccato direttamente, poi è difficile anche stabilirlo, però. No, è difficile stabilire, anche perché credo che stare in un circuito di comunicazione fatto di tante cose è un bisogno di tutti, fa bene a tutti. Senti, ma c'è un obiettivo di questa cosa? Cioè, volete conquistare l'universo? Cosa volete fare? Ma, l'idea è di fare un network che un po' c'è già, perché le radio sono abituate a trovare la società mentale, ma il numero così grosso, sì, di fare un network, di marciare sulla città, di invadere Radio 24 e noi siamo qua, vi apriamo le porte, non si può fare naturalmente per quanto anche Carlo, perché oggi c'è un incontro alle 15, è giusto? Sì. alle 15 c'è un grandissimo incontro, è un incontro pubblico. Un incontro pubblico in cui i DJ e gli speaker delle radio della salute mentale incontrano i DJ, gli speaker, i radiofonici, i DJ delle altre radio per chiedersi liberamente: ma tu che cosa avresti fatto della tua vita se la radio non ti avesse salvato la vita? Mi si è prestato tale Gabardini Carlo, che è uno psicopatico gravissimo. Sì, e che conosciamo. Qualcuno ricordava, ma perché la vita di tutti è fatta di molte cose, che cos'era? Una settimana fa un DJ affermatissimo di una radio importante di Milano è stato fermato dalla polizia, sì, mentre no. Di noto diceva: sono un poliziotto dell'antiterrorismo. Sì, aveva sì. Quindi abbiamo tutti bisogno. Tutto di ciò dirci. È fantastico. Esatto, diciamo che i matti siamo tutti. Grazie, Massimo Cini. Ci sarò anch'io, sarò felicissimo di essere lì alle 3 alla fabbrica del vapore. Prendi le gocce, Carlo. Certo, certo. Non te ne dimenticare. In alto i cuori stasera, oggi pomeriggio alle 15, Radio City, l'appuntamento con le radio della salute mentale a fabbrica del vapore. Mi raccomando, siamo in chiusura. Allora, diciamo chi vince il gioco di oggi, a giudizio insindacabile della redazione. Chiara da Firenze con l'amico che accende il phon. Perfetto, e tutti gli altri accenditori di phon. Assurdo, intollerabile. E salutiamo e ringraziamo Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Daniele Buonamici in assistenza in diretta quest'oggi, Peter Bescapà in regia. E da Carlo Gabardini, buon sabato. Ci sentiamo domani anche da Alessio Maurizio. Mi raccomando, domani 8:30. Ciao.